Tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, spazio settimanale dedicato al teatro, spettacoli e mostre. Il martedì alle ore 14. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. La Romana Repubblica, quando il popolo diventò sovrano, a cura dell'Associazione Culturale Controchiave, da un'idea di Roberto Leone, testo di Claudio Romanelli e Guido Rossi, con Andrea Bertagnoli, Maurizio Calvano, Sara Reale, Paola Caldarola, Paola Barite, Francesca Mariani, Guido Rossi, musiche composte ed eseguite dal vivo da Paolo Bevilacqua, Marco De Persio, Luciano Bevilacqua, Gianni Pieri, Massimo Frasca, riprese di Francesco Romanelli. Lo spettacolo sarà in scena a Roma, al Museo Ossario Garibaldino, mercoledì 3 luglio 2019. Thank you. deve raccontare a se stessa. Altri, questa storia, la raccontano ogni anno. Nella notte del 9 febbraio, in una piccola porzione di territorio che da Ravenna si spinge verso il Forlivese, attraverso le campagne, può ancora succedere di avvistare delle piccole lanterne accese e poggiate sui davanzali delle finestre. È una tradizione, una memoria. La tradizione racconta che la notte del 9 febbraio le famiglie accendono dei lumini per illuminare la notte con la luce della libertà. E quella libertà viene fuori dal ricordo dei festeggiamenti immediatamente successivi alla proclamazione della Seconda Repubblica Romana a Roma nel 1849. E noi? Dico noi qui a Roma. No, perché romana non è un modo di dire. Quella cosa lì, la Repubblica, è stato un fatto che fa parte di una storia di tutti, ma in special modo è nostra. La Repubblica Romana è accaduta qui, a Roma. Apposta si chiama Romana e non Repubblica Subappennina o Centro Orientale, ma Romana. È la sera del 2 luglio 1849. Mentre i francesi entrano da Porta del Popolo, al Campidoglio si vota la Costituzione. Siamo in un'osteria, nel mezzo. In un vicolo ai lati di Via del Corso. Rifugio di popolari, di combattenti, di gente del popolo. Ma anche dell'elite. Er popolano, ex papalino. La popolana garibaldina. La nobile romana. Il deputato romano. Il deputato settentrionale. Lo stessa, la patriota mazziniana. Ma secondo voi, da dove staranno entrati i francesi? Oh, ma secondo voi, da che parte saranno entrati i francesi? Da Porta del Popolo, di là. Ma secondo voi, faranno in tempo lassù al Campidoglio a votarla, quella cosa là? Come no, in mezzo c'è la lunga Via del Corso. Ma guarda tu, mi merito buon'anima, dei tanti posti dove la doveva costruire l'osteria, in mezzo a Via del Corso, al centro della storia. Io sono nata il giorno che sono arrivata a Roma. Prima non esistevo. E noi? Noi qui in mezzo, secondo voi, faremo un tempo a raccontarla. Chi comincia? Il gioco dei moccoletti? Eh? Il gioco dei moccoletti? Ah, senza moccolo! Senza moccolo! Senza moccolo! Senza moccolo! Ho vinto io. Comincio io. Da dove bisogna cominciare questa storia? Dal primo che è stato ucciso, morto ammazzato, come dite voi. Pellegrino Rossi. Già solo il nome, Pellegrino a Roma. Che voi, se qualcuno viene da fuori, glielo strillate dietro. Ma Pellegrino! Il Rossi a Roma non ci doveva venire proprio. Il primo e ultimo, primo ministro laico della Roma papalina. Era un tipo rigido. Pareva avesse un bastone piantato lì, dove non si può dire, per la presenza qui delle signore. Ma insomma, perché? Che c'hai? Oh, io sto Pellegrino Rossi non l'ho mai chiesto nominato. Non se ne parla tanto volentieri, perché era un tipo che non accettava compromessi con nessuno. E vuoi venire a governare Roma? Ma allora lo vedi che sei proprio un pellegrino. Venne, ce lo chiamò il Papa quando era alle brutte. E te credo che era alle brutte. Aveva tradito la causa nazionale. Ma quale tradimento? Ma sciacque della bocca se credete parlare così del Santo Padre. Lo sai l'amico tuo, Ciceguacco, come lo idolatrava? Ci c'ero anch'io. Sembrava diventato il nuovo re di Roma, il nuovo Menenio Agrippa lo chiamavano. Uno di quei carrettieri a vino che hanno quel modo di fare, di stare, di comportarsi come se fossero i padroni della città. Poi arricchito mercante, quante volte è venuto anche qui all'osteria, un vino da bere a tutti, eh? Oggi per il Gran Pio siamo felici e dai briganti più saremo offesi. Oggi per il Gran Pio siamo tutti amici e amici avremo pure i bolognesi. Se alcun corpo di Dio dei re nemici fa un passo avanti, noi già siamo tristi. Evviva le province, e Roma madre, e viva Italia, col santo padre. Viva. E invece poi, ne sei rivoltato voi. E noi, tutti noi, appresso a lui, come sempre. I romani, a quel tempo sembravano uno stormo guidato da lui. Si era fatto fare persino una giubba, con tanti riquadri, con sopra scritto a caratteri d'oro: l'Italia farà da sé, lo dice Pio il Grande. E dopo un po' però rimase soltanto: l'Italia farà da sé, e cancellò Pio il Grande. Ma il Papa Pio IX in un primo momento aveva consentito che una legione di soldati pontifici andasse a combattere insieme con i Sabaudi contro gli austriaci. Poi sua Vicenza avevano subito un rovescio. Che si è rovesciato? Avevano beccato una sonata. Avevano scagliato, si parli bene. E a quel punto il Papa si è tirato indietro. Ma questo riconosce. Fatto sta che i legionari tornarono a Roma talmente incazzati che si rifiutarono di rompere le righe e andavano in giro per Roma a far caciara. Le panuntelle, sì, le panuntelle. Che li chiamavano così per via di certi mantelli. E fa la corta! Ma questa cosa la racconto perché è importante! Perché il giorno che ammazzarono i russi, la piazza era piena di quelle panuntelle. Vabbè, ma io dicevo che siamo tutti gli indagati, perché sto papà si faceva pure bene, era bravo, alla mano. Oh, pensate che un giorno stava in carrozza a Via della Lungara, quando vide un corteo che portava l'estrema unzione a un poveraccio. Allora lui scese da carrozza, prese un moccolo. Ma guarda che a Roma a reggere moccolo è una prassi. E papa, umile, spontaneo, seguì la processione. Ha capito, sì, che tipo. Bravo. E fece il miracolo? Che fine fece il poveretto? Che fine doveva fa? Morì. E si vede che Pio IX già da allora non ci capiva poi tanto di risorgimento. De che? Ma che già non voi ricordate più il coso lì proprio? Oh, come si dice quando il Papa fate capoccia? Il motu proprio. Motu proprio. Del 10 febbraio dell'altro anno. È il giorno più grande nella vita di Pio IX. Romani, ai vostri desideri, ai vostri timori non è sordo il conteggio. Però diceva pure: non vi commuove il grido che agita i popoli d'Italia, perché esso porta il timore di una guerra straniera. Nessun pericolo sovrasterà l'Italia fin quando un vincolo di fiducia congiungerà insieme le forze dei popoli, la sapienza dei principi e la santità del diritto. Ma il capo e pontefice della santissima cattolica religione, quando fosse ingiustamente assalito, avrebbe a sua difesa innumerevoli figliuoli. A difesa? Innumerevoli? E quanti sono sti innumerevoli? Un gran dono del cielo, che 3 milioni appena di sudditi nostri abbiano 200 milioni di fratelli d'ogni nazione. Ma insomma, che diceva proprio sto motu proprio? Benedite, gran Dio, l'Italia. L'Italia, capito? Tutta intera. Perché si è risaputo dappertutto che Pio IX l'Italia la voleva unita. Sì, ma non ci aveva spiegato pure che se facevamo troppo casino venivano in 200 milioni a faccia il culo, con rispetto parlando, eh? Beh, l'espressione è un po' colorita, però rende perfettamente l'idea. Allora, lì per lì non ci fece caso. Ma chi ci pensava ad andarsene a pigliare col Papa? Oh, e benedite, grandio l'Italia, e questo era tutto. Oh. E si provò a trovare un accordo con i Sabaudi, no? Venne contattato il loro delegato a Roma, che però rifiutò. E come si chiamava sto delegato? Piazzoni, Piazzoni, io me lo ricordo perché per fargli questa proposta sono venuti a svegliarlo all'albergo proprio qui dietro. Sì, me lo ricordo. Ah, quindi se funzionava, gli eroi del Risorgimento Nazionale, cui intitolare piazze e monumenti, si chiamavano Mazzini, Garibaldi e Piazzoni. Pensa a Piazza Mazzini, Viale Garibaldi e Piazza Piazzoni. Non poteva funzionare. E infatti cadde tutto, e cadde addosso alla fine della fiera, a Rossi. Quando arrivò a Roma per cercare di raddrizzare lo Stato romano pontificio, era tardi, disse: ormai è come la mostarda dopo pranzo. Oh, era del nord, lì se mangia la mostarda, non è colpa loro. Sempre a far caciara. Per non parlare poi della caciara che faceva ce la puoi fa? Ciceruacchio. E gli altri. Non pareva mai una cosa seria. Sembrava sempre una scenata alla romana, dove la tragedia finisce in farsa. Sapete, no, che un giorno Pellegrino... Ah, Pellegrino! ...vide l'inseguimento di una spia, un traditore, che se ne andò a nascondere all'oratorio di Sant'Andrea alle Prati. E come no, quel pappone de Minardi. Un prete. Su via, signore, sono qui. Viva il Papa, viva il popolo romano. E viva il padre Ventura. Ma dobbiamo avere l'uomo. Ti assicuro che non c'è. Sì, che c'è. Se c'era l'avrei preso per un braccio e consegnato alla giustizia e voi lo avreste rispettato. Sì, sì, ma che è? Che cosa? Dimenticate forse che sono un sacerdote. Potrebbe mai un prete ingannarvi e mentire? Birbone, sarà fuggito dalla parte di dietro. Evviva il padre Ventura. Ebbene, figlie mie, andate. Andiamo a bere un buon bicchiere. Così fu fatto e buonasera. Quella caccia all'uomo finì così in burla che Rossi tornò a casa convinto che a Roma la tragedia finisce sempre in pazza. Ma non sapeva, quel povero cristiano, che la tragedia vera sarebbe stata la sua. Ma non si capacitava neanche il Santo Padre Nostro di quello che gli chiedevano di fare. Le guerre, le battaglie, ma un Papa non può gettarsi nelle utopie della gente che parla persino di una Lega Italiana di cui il Papa sarebbe il capo. Come se le grandi potenze straniere fossero state disposte a permetterla. Ma queste sono chimere! Veleno sputato dalla coda di una chimera. Deve essere sembrato al buon Papa la lettera che Giuseppe Mazzini gli fece trovare proprio sul sedile della sua carrozza. Date uno spettacolo nuovo, unico al mondo. Riceverete nuovi risultati, imprevedibili da ogni calcolo umano. Annunciate un'era, dichiarate che l'umanità è sacra e figlia di Dio e che quanti violino il suo diritto al progresso e all'associazione sono sulla via dell'errore. Benedite chi soffre e combatte. I popoli adoreranno in voi il migliore interprete dei disegni divini e per questo la vostra coscienza darà segni ineffabili di forza e conforto. Unificate l'Italia, la patria vostra, e per questo non avete bisogno d'operare, ma di benedire chi opererà per voi e nel vostro nome. Per Pio IX è un colpo, è allora che decide di giocarsi l'ultima carta. pellegrino. Tentate voi. Ormai è come la mostarda dopo pranzo. Non piacciono a Roma i modi del Rossi, duri, arroganti, non atti a conciliarsi il pubblico, massimamente questo di Roma, per lunga tradizione così delicato e suscettibile. Anfa, delicato e suscettibile. Infatti. Vengo a prendere gli ordini di vostra santità. Non ne ho che uno da darvi. Quale, santissimo padre? Quello di prendere tutte le precauzioni possibili per evitare ai nostri nemici un grave crimine, per risparmiare a me un immenso dolore. La vostra vita è minacciata. Non oseranno, sono troppo vigliacchi. Ma non sapeva. Quell'uomo tutto d'un pezzo, qualche giorno prima dell'assassinio suo, s'erano visti per certi vicoli due o tre maldati prendere a coltellate un corpo morto, un cadavere rubato all'obitorio e usato proprio per vincere la vigliaccheria, per evitare che la coltellata, che non era la puncicata solita, fosse indebolita dal tremore di una mano o da un'incertezza data dalla sconoscenza della carne viva quando ci affondi davvero. Piazza della Cancelleria, 15 di novembre, verso l'una. La piazza è piena zitta, specie dei legionari con la pannutella. Quando Pellegrino passa accanto a loro, gli danno un colpo verso le coste e vedo i Rossi girarsi dandogli una guardata e intanto continua a camminare andando avanti. Allora, siccome il canale che rimane in mezzo ai legionari per cui passa il Rossi è stretto, vedo il figlio di Ciceruacchio, Luigi Brunetti, dare a Rossi un cazzotto sotto i denti e immediatamente con una baionetta gli dà pure un colpo in testa. E quindi, con indifferenza, si stacca dal gruppo e si dirige dentro il cortile del palazzo dove c'è una porta che mette il vicolo dei leotari e Rossi, appena ricevuto quel colpo, grondando sangue, cade ai miei piedi. Il colpo! Partì da una mano sola, è vero, ma la piazza intera aveva decretato. Ammazzalo, dicevano, a morte il rinnegato. Ma dicevano pure a Birboni che l'hanno ammazzato. Guarda che fontana di sangue. Subira non è niente, a che tanto affanno? È forse morto il re di Roma? Die sire, die illa, al ministro Rossi. Come vi stessimo io, l'ex ministro Rossirio, della collera di Dio. Fu italiano traditore, ai francesi disonore, alla Svizzera dolore. Senza paria, senza tetto, urlò il mondo i maledetto, senza cor, senza alma in petto. Di sentir parlare con soddisfazione di una morte violenta, ma questo fatto mi colpisce come qualcosa di terribile giustizia. Ma che stai a dire? è quello che ho sentito io l'altro giorno al mercato di Campo dei Fiori. Sai quella giornalista, quella americana, ce la presente? Quella che dice che ha sposato la causa romana. La causa romana, non lo so. Oh, ma quello del mercato l'ha sposato di sicuro. Oh, mio God, il Rossi, che terribile giustizia. Oh, mio God, un cesto di uova solo, un centesimo. Oh, mio God, che morta violenta, ma necessaria. Oh, mio God, lo chiede di salata solo un centesimo? Oh my God, due bolli arrosto sono 15 centesimi! Oh, suo God! Ma questa è affascinata proprio da tutto quello che Roma può offrire oggi. La spesa fatta a buon mercato è un nemico del popolo sgozzato. Perché la coltellata, Rossi, giunse al collo. Il Rossi era un genio. Uomo onesto. Sì, ma geni e uomini onesti devono servire la causa del proprio paese. E il Rossi in quei giorni la tradiva. Uomini onesti. Luigi Brunetti, detto figlio di Gigi Cituruacchio per via del padre, andò da un amico e gli disse: figlio, diglielo. Oh, vada da Piazza de Spagna, da Matteo. Digli che se non fa rivoluzione entra domani. Sono rovinato, non me lo darà più. E com'è come non è? La rivoluzione cominciò proprio quel giorno. Ma lo sa come vanno le cose, no? Roma c'ha tutto un tempo suo e gli altri hanno fatto il 48 e... Dove Roma arriva tardi e fa il 49. È come una bella donna allora che arriva soltanto a festa cominciata. Ah, per far girare la testa ai mariti e le palle alle mogli. Insomma, com'è come non è? A Roma succede il 49. Ma poi succede tutto un po' così, perché non si capisce, perché i romani si erano fatti malcontati 1400 anni di papato, 1400 anni senza avere la responsabilità di niente. Un buco civico, ma che dico, una voragine, che per riempirla poi, quanto ce vuole? Roma è papalina, e non a caso te la metti in testa per dormire. Roma eterna, che non finisce mai, e Roma piena dei preti, ma non solo, dei osti, ciceroni, modelli da vittà, che si mettono in mostra la mattina sulla scalea del Trinità dei Monti, modello del giovane, del vecchio, del bambino, le belle statuine, ecco i romani. Roma è campagna ormai, più che città. A Roma, a Gargianicolo, è malaria. Quando viene l'estate come questa? A Roma sei stata papa, si non muori. I monumenti, colonne, terme, fori, sono evidenze d'autopsia, lasciata mezza fatta. Roma è passato, mai passato davvero. Grazie al Papa! E Trastevere è convinta seriamente che scende dritta dai romani antichi. E la storia che dicono i francesi, Trastevere a vederci plaudirà, che detta così sembra una vergogna. Roma da metterli subito alla gogna. Non conta niente, non sono traditori. Sono plebei che se credono signori. Ma che democrazia, siamo periti. Roma è una nobiltà senza potere, se non quello di maltrattare qualcuno, ma così per scherzo, perché Roma è anche il conte che gioca a Calabresella o a 3-7 col fattore, se scopre che poco poco è bravo a giocare a carte. Ma Roma so 100 papi almeno, e so Leoni, Gregori, Innocenzi, Clementi, Sisti, Giovanni, Paoli, come te senti, come te la vivi, se per giorno il Papa Pio piglia parte e se ne va a Gaeta. Il Papa fugge il 24 di novembre. Pio nono si era preso scanto per Pellegrino Rossi e per quella fucilata che il giorno dopo al Quirinale aveva steso Monsignor Paolo, il segretario delle lettere latine, che per curiosità si era affacciato. Due morti, due, il Rossi e il Monsignore. Notasi che questa è la rivoluzione meno violenta di tutta la storia dell'umanità. Forse il problema è proprio questo, che sta rivoluzione non è principiata sopra le barricate, col nemico preso a cannonate, con la presa della Bastiglia. No, no, è stato più come quando sei rimasto in mezzo al mare, affidato al capitano del vascello. Del vascello. E a un certo punto, come ti ha rivolto, il timone è rimasto abbandonato e gira a destra, a sinistra, come capita. Ma il capitano, quello dove è andato? In lontananza vedi una barchetta e riconosci una sala. Ti sembra, ma la distanza è tanta e con la manina fa qualcosa che non capisci. Se ti rimprovera, come a dire, guarda che m'hai costretto a fare. O te benedice, come a dire, le voglio tanto bene, sentiamoci ogni tanto. O solo te saluta, come a dire, e mo so faracci vostra. E l'equipaggio non ci crede ancora, pare impossibile, perché loro quel vascello. Il vascello? Quel vascello loro non l'hanno mai visto senza quel capitano. Forse non c'è mai stato proprio. C'è andato solo. Gliel'hanno costruito intorno. Papa senza Roma non è niente, ma Roma senza Papa, e chi la crede? E allora l'equipaggio si guarda in faccia, un poco frastornato. Ma mo che famo? E che famo? Navighiamo? Ma per dove? Ma che siamo ammutinati? Io direi tu giusto orfani di padre. Ma insomma, questa è una rivoluzione. No, scusa, E papà se n'è andato da solo, mica l'abbiamo cacciato via noi. E allora che diritto abbiamo noi altri popolo di governarci da noi stessi medesimi? Ma fuggito è il sovrano, da lui abbandonati, i loro diritti sono sacrosanti, più di quelli di ogni altro popolo. E allora si procede a libere elezioni. A libere che? Elezioni. E che sarebbe? Allora sarebbe che il popolo decide chi deve decidere. Il popolo è troppo, non c'entra tutto, manco al Colosseo. Il popolo è un gigante sparpagliato tra Velletri, Ancona, Gubbio, Frosinone, e sto gigante è rimasto addormentato per 1400 anni e mo deve decidere. Sì, ma che deve decidere? Tutto. Dopo sto sonno eterno a Roma, bisogna decidere tutto. E quindi si procede all'elezione universale. Universale? Sì. Ma le donne non sono nell'universo? L'uomo che avrà 21 anni compiuto avrà diritto di sottoscrivere. L'uomo vuol dire. E perché non anche la donna? Ma per favore, se mai sentito che una donna possa dar voto in affari politici? Non è questa una buona ragione, mio caro, perché per il corso di mille secoli si è usata un'ingiustizia. Non si acquista il diritto di continuarla sempre. Ma che ne sa la donna di Costituzione, di Repubblica? Ma come? Non intenderà che nella Repubblica i capi del governo sono tutti elettivi e mutabili? Credete pure che ciò intenda anche il villano che adopera Amanda? Il ciabattino che racconcia le scarpe, il facchino che porta i sacchi. E pensate che la donna, perché donna, non sia capace di intendere. No, ma è l'idea stessa di suffragio universale ad essere assurda. Ma che ne sa del popolo chi non ha mai governato? Ma come può un ignorante fattore avere delle idee politiche? Ma intanto si vota! Roma era una nave senza più il santo nocchiero. La nave, era facile vederlo, procedeva sospinta da aquiloni furiosi. Flutti tremendi si alzavano grandi barche. Poche. Era c'erano le possibilità di salvarsi, ma morire con onore, se in nessun modo poteva evitarsi, era pur sempre un principio di salvezza, e finire per finire, meglio farlo con dignità che vergognosamente! Dei popoli, dei momenti solenni nei quali si decide dei loro destini, spesse volte per sempre. Alla corte, sì, è subito Repubblica! No, oggi il popolo romano è qual era l'antico senato in cui si decidevano i destini della patria, ma non per impeto di passione, per maturità di senno. Atto unico, immortale, o tradirò il mandato del popolo recitandogli una farsa dopo avergli promesso salute? Quello che si può promettere da noi oggi alle moltitudini, perché ci seguono coraggiose, infiammate, sia un bene e un profitto non molto certo, non vicino, non bastante ad accendere la fantasia e lusingare l'interesse. Fondatore della libertà dell'uomo comandò a Pietro di pascere le sue pecorelle. I romani pontefici, di loro arbitrio, interpretarono che egli avesse detto: prendete i velli del mio gregge, prendete la carne e il sangue. Ma in nome di Dio, ma chi sarà al mondo che potrà dirci: voi altri avete meno diritti degli altri popoli? Ma come? Ma perché? Rappresentanti del popolo, le moltitudini saranno pronte a grandi sacrifici. Se sostenete il fatto, proclamate la Repubblica! Ma se sospettate il contrario, contentatevi del fatto senza pronunziarne il nome. Ma non sentite voi questo sacro suolo tremare sotto i piedi? Sono le anime dei nostri eroi che fremono. Vi gridano alle orecchie: viva la Repubblica Romana! Ma tardi cozio contro il fato e follia, ditemi, oh signori, Europa è essa favorevole al nostro movimento? Sì! Abbiamo noi a sperarne aiuto o a temerne guerra? No! Europa ci lascerà far tutto, la credete? Sì! Ma avete qualche dubbio almeno? No! Alle 11:30 di sera di giovedì 8 febbraio viene approvata la mozione Filopanti a Roma. Democrazia pura, con il glorioso di Romana Repubblica. E poi sembra che a Roma niente, nulla importi granché. L'abbiamo vista di tutti i colori, solo il vino è sincero, il resto sa bubole. Certo, però a vederli uscire tutti quei deputati in fila, lenti, occhi rossi, anche un po' tesi, che non si capivano se erano contenti o gli era presa un po' paura. Certo, com'è come non è quando qualcuno iniziò a gridare: viva la Repubblica! Viva! Allora fu come l'inizio di una festa! C'era qualcuno che iniziava a gridare: viva! Abbiamo di nuovo pane e libertà! E qualcun altro: e viva la libertà! Ma il pane ancora non c'era. Poi tutta la città si riempie di gente, la via del corso è piena di gente, e di movimento, le case quasi non si vedono più, la città è ricoperta di verde, di drappi e di bandiere. E le finestre delle case, ognuno ha acceso un lume. Oggi la notte torna indietro, Roma è illuminata, è viva la Repubblica! Evviva! Io mi trovavo a Trinità dei Monti. L'altura era piena di gente che si godeva lo spettacolo della propria città distesa lì davanti, quasi avvolta in un mare di fuoco, i cui colori continuamente cangianti davano fantastici bagliori alla festa del popolo giubilante! E papa se n'è andato Reventino, e adesso se godeva il Tolentino, se gode sta Roma liberata. E arriva tutta Italia con Mazzini, Americo, Manare, Morosini, arriva la regione dei inverni, il grande l'ha gelato, adesso c'ha paura, non fa la voce grossa, ma gli è mancato, e il Papa è scappato, e il Papa non c'è più, e il Papa va in sovrano e sta dritto a destra giù, e il popolo si mette a fargli festa. Mescolato al pubblico alla proclamazione della Repubblica, invia un telegramma a Mazzini: Roma, Repubblica, venite. Quando entra a Roma da Piazza del Popolo, Mazzini è solo. Nessuna notizia precedette il suo arrivo, ha il passo deciso, ma è solo nella piazza e appare duramente provato dal lungo girovagare di nazione in nazione, braccato dalla polizia di mezza Europa. Roma era il sogno dei miei giovani anni. Entrai una sera a piedi sui primi del marzo, trepido, quasi adorando. Trasalii al varcare Porta del Popolo, d'una scossa quasi elettrica, d'un getto di nuova vita. Sentia che il cuore della battaglia per la Repubblica italiana e per l'indipendenza italiana poggiava sulla sopravvivenza e sulla vittoria della Repubblica romana. Insieme al popolo di Roma, incontrò Mazzini il giorno dopo. È acclamato dalla folla, lungo il tragitto che lo porta verso Palazzo della Cancelleria, dove prenderà il suo posto nella Costituente. Prima che io varchi il soglio sacro dell'Assemblea, voglio che il popolo sappia che combatteremo insieme, perché da questi passi nasca il cammino della patria. È una parola che il popolo intende dovunque, e questa parola è Repubblica. Repubblica, ossia cosa pubblica, governo della nazione, governo retto da leggi, leggi espresse dalla volontà generale. Ora la Costituente dovrà sancire il patto italiano fondato sul consenso e il progresso di tutti i cittadini. Sarete voi che creerete un'Italia nella quale tutti abbiano pari diritti, pari doveri, pari dignità. Sarete voi che cambierete le vostre condizioni materiali. Davanti a queste parole rimanemmo un po' confusi, ma orgogliosi. Mazzini mi sembrava un po' poco. Dico come figura, aspettavo così secco, occhi incavati. Sì, vabbè, è uno che medita e tutti i re lo vogliono arrestare. Ma avete visto? Garibaldi. C'era tanta gente a San Silvestro, tanti bei ragazzi stranieri, tutti lì a gridare, a titare, a far chiasso. Laggiù, guardate laggiù. Allora m'appizzo sulle punte dei piedi e dall'altra parte della strada cosa vedo? Come fosse un sogno. Vedo che la piazza è piena di gente con le braccia alzate che sventola panni come bandiere. È lì che vedo tutte quelle macchie rosse, giù rosse come sangue, d'un rosso che non avevo mai visto prima. E berretti strambi di pelo e codine e code di cavallo e stringhe e frange rosse, gialle, bianche, d'oro e d'argento. E davanti una banda armata con le giubbe larghe a pieghe blu e delle cinture tutte strette in vita, tutte appuntate come a far da... Ma come si dice? Da cartucciera. Ah, ma li avessi anche lei? No, certo, erano i garibaldini. Che poi all'inizio mi erano sembrati una massa di straccioni, poi si sono allargati ed è comparso lui sul cavallo bianco, una coperta sulle spalle che sembrava il mantello di un principe. Sì, ma senza ghiggheri, altro che principe. Quello è un uomo. E che uomo? Garibaldi ha la faccia di un uomo giusto, di uno che ha visto il mondo. Ha una faccia che ti sembra che non ne hai mai vista una così. Però potrebbe essere anche uno del popolo, che ne so, uno di Trastevere. Io l'ho seguito e ti posso dire che quando compare sul cavallo, vestito di bianco, sembra sempre immobile, una statua. Sia che col destriero rimanga fermo, sia che ora qua, ora là, sulle groppe di quello, corra. Quello ha la faccia di uno che ha fegato, che non ha paura di niente. Sembra il simulacro del destino, venuto a contemplare il compiersi della sua legge. Pare difficile, ma perché questi stranieri che vengono a Roma a me mi sembra sempre che stanno tutti a scrivere. Caro fratello, sono a Roma per battermi per la sua difesa. Sono al fianco dei Lombardi, Romagnoli, Toscani, molti vien dal sud. Quando ci si incontra si sente una musica di parole che le parla un'altra straniera, ma l'orchestra è tutta italiana. Cara Marina, le vie sono coperte di sabbia e intersecate da barricate. Roma è piena di popolani che girano armati. Caro padre, c'è un lungo tappeto rosso che va da Porta San Pancrazio sino alla porta dell'ospedale. È fatto del sangue colato dalle barelle che trasportano i feriti. Peppino, lo vedo, si può dire ogni giorno, sta bene, non abbiate timore per lui. Vi scrivo da una Roma barricata. La madre di tutte le nazioni si trova a spalle al muro a fronteggiare tutte le altre. E sebbene non possa fronteggiare a lungo il mondo che si arma contro di lei, intende perlomeno provarci. Noi dobbiamo morire per chiudere con serietà il 48, affinché il nostro esempio sia efficace dobbiamo morire. Firmato Luciano Manara. È vero, questi stanno sempre a scrivere, sparano, combattono, assaltano, ma appena possono si buttano su un pezzo di carta e lo riempiono di parole. Ma tutte queste parole qualcuno le legge? Ma dove hanno finito? Dappertutto, anche sui muri. Le parole che stanno sui muri, lo sapete come si chiamano? Si chiamano grida. Ma lo sapete perché? Perché le parole che stanno sui muri informano i cittadini che ci sono delle nuove leggi e queste leggi le devono conoscere tutti, anche quelli che non sanno leggere. E allora chi sa leggere le deve gridare e anche chi le sente poi le deve gridare. D'oggi tutti i palazzi dei preti, le ville dei vescovi diventano repubblicani. Da oggi le scuole non sono più della Chiesa. Tutti sapranno scrivere, anche le femmine e i poveracci. Hanno abolito la tassa sul sale, così i torloia non beccano più un baiocco. Il Sant'Uffizio viene abolito e così il suo tribunale e la censura. Abolita è la pena di morte. Le terre della Chiesa saranno spartite, così anche i poveracci potranno farci l'orto. Da oggi ci si può sposare senza andare in chiesa. Io de mimosa, colomba tra le bombe, ce se sposa, spina nel cuore. È tempo che se parli un po' d'amore. Io ho una storia d'amore. Un amore di quelli che ti fermano il fiato in cima al petto, che ti respirano addosso quando il tramonto di Roma ti fa piangere e l'ingiustizia ti fa gridare di dolore. Luigi Porzio gridò di dolore davanti al corpo della sua donna, Colomba Antonietti, ragazza umbra e innamorata, innamorata del suo Luigi. La colomba innamorata era rapita dagli occhi di lui, ma devo dirlo e dobbiamo saperlo, la colomba era innamorata di quell'uomo e delle sue azioni, del suo ardore, della sua forza. Luigi lascia il corpo di guardia della guarnigione pontificia per combattere per l'unità d'Italia, per dare al popolo un futuro migliore. E lei voleva vivere con lui in quel futuro. Ma sei matta, ti impedisco di andare. Il padre, che ti salta in testa, devi allontanarti da quel Luigi, è pericoloso. La madre, ma Colomba sa cosa è giusto fare. Segue il suo uomo e lo segue perché è innamorata. Ed è innamorata perché lui ha rinunciato a tutto, pur di seguire le proprie idee. I due arrivano a Roma con i bersaglieri di Luciano Manara. Giunta a Roma, Colomba rafforza le sue convinzioni, incontrando per strada molti giovani, venuti da tutta Italia per lottare come il suo Luigi. Il mondo migliore si sta costituendo proprio qui, tra i quartieri di Roma. Colomba fa la sua scelta, mette mano ad Agostino e ripara una divisa vecchia del suo Luigi, taglia i bellissimi capelli neri e finalmente indossa anche lei l'uniforme da bersagliere per combattere a fianco del suo Luigi. A nulla valsero le voci che tentarono di dissuaderla. Colomba non aveva paura delle marce, della fatica, della battaglia. Avrei più paura a restare da sola. Sono più forte di tanti uomini. Io sono convinta. Perché non posso fare la mia parte? Guarda queste mura. Come sono mal ridotte, cadono a pezzi. Non sarà pericoloso. Intendo più pericoloso delle cannonate che ci stanno tirando i francesi. Guardate, ogni palla fa cadere grandi pezzi di muraglia. Guardate lassù. Quella cannonata fa saltare un merlone di sacchi di terra e la terra sale in alto e poi ricade giù a doccia che sembra quasi buffo, sembra uno scherzo. La palla di cannone sbatte contro il muro e rimbalza indietro e spezza le reni di un giovane soldato. Il giovane soldato, posto nella barella, incrocia le mani, alza gli occhi al cielo e rende l'ultimo respiro. Stanno per recarlo all'ambulanza quando un ufficiale si getta gridando, si getta sul cadavere e grida di dolore e ricopre il corpo di baci. Pina! Pina! Così la chiama. L'ufficiale era Porzio. Il giovane soldato era Colomba Antonietti, sua moglie. Io ci sono stata al funerale di Colomba Antonietti. La salma fu portata per le strade di Roma fino alla porta della chiesa, tra due ali di popolo commosso. Deposta la bara in chiesa, la moltitudine si genuflesse, piangendo. C'erano molte donne, le stesse donne che combattevano a fianco del sesso forte per difendere la patria loro e le istituzioni. Molte di loro mostravano carità, assistendo i feriti o vegliando la notte a traversare dei moribondi. Tra le infermiere volontarie che sono intervenute ho riconosciuto Madame Modena, la moglie del famoso attore Gustavo Modena, e poi la principessa di Belgioioso, Anita, Giulia Bovio, Enrichetta De Lorenzo, e con loro la moglie di Antonio Lupi e la compagna di Augusto Vecchi. Per i clericali, tutte puttane. Ior d'amaranto c'è sta una donna che consola il pianto, ma se combatte e lotta sta donna de sicuro è una mignotte, rimestatori, traditori, anarchici, comunisti, teste bislacche, masse di briganti e, detto con disprezzo, stupidi sognatori. Così ci chiama dei clericali, rivestatori, anarchici, comunisti, teste bislacche, masse di briganti, usurpatori. Così ci chiama le francesi e questo proprio non lo sopporto. È atroce. Loro re hanno tagliato la testa per avere la libertà, l'uguaglianza, la fraternità e l'articolo 5 della Costituzione. La Repubblica Francese riconosce le nazionalità straniere e non intraprenderà alcuna guerra a scopo di conquista e non impiegherà mai le sue forze contro la libertà di un altro popolo. E allora? Ma che differenza c'è con la nostra di libertà? Perché tanto affanno per rimettere il Papa sul trono? Se ci tenete tanto a sto Papa, prendetevelo e portatevelo a casa vostra, così stiamo pari. Ma il francese non pareggia, è un trappolaro. Prima ha ingannato se stesso, poi ha ingannato Roma. Eh no, trappolaro capo, è il generale Udinot. Il giorno prima della battaglia, Udinot consegna un messaggio a Mazzini. Arrendetevi, vi tengo in pugno, vi attaccheremo in forze il 4 giugno. Udinot è uomo di fede, se lo dice lui, ci puoi credere. Ma nemmeno per idea. Udinot l'attacco lo sferra alle 3 del mattino e la domenica 3 giugno. Cosa? Ma mi avete frainteso, disse Udinot. Grazie alla sorpresa, i francesi hanno conquistato tutte le posizioni dominanti. Quel giorno, all'altezza di Porta San Pancrazio, in mezzo alla battaglia, c'è un gruppo di musici che suona. Siete dei furfanti! Furfanti del Papa! I francesi, si resiste ai francesi con incredibile ardore. I francesi pensano di averla vinta in poche ore. E invece Roma resiste per un mese. Quando giunge la notizia, alla fine della prima giornata, si contano più di 1000 tra morti e feriti. Anche Goffredo Mameli venne ferito in modo grave. Adesso non ci sono più trappole, né parole al vento, né falsi ideali. finalmente mo stiamo faccia a faccia. Colpi di sparate a destra, colpi a sinistra, passa un leggiante di patrioti, si buttano improvvisamente sul nemico, che bombarda e si rinforza giorno su giorno. Quando giunse la notizia che anche Luciano Manara era caduto, s'alzò l'urlo dei combattenti: difendiamo il vascello! La lotta è disperata, il pian terreno del casino dei quattro venti è pieno di morti fatti a pezzi, ma i nostri non si fermano, lanciano i cavalli all'attacco lungo le rampe esterne del casino. Forse ognuno sa che quello è l'ultimo giorno della Repubblica. La battaglia si frantuma in 100 combattimenti corpo a corpo, orgoglio riversato nelle strade come sangue. Cade il casino dei quattro venti, cade nella spada, il vascello invece resiste, lacero, martoriato, bersagliato, martellato incessantemente dalle bombe. Resiste, il vascello resta in piedi. Il francese sta per entrare. La Roma sa che non può uscire sconfitta da sta guerra. Affrettare la Costituzione. La Costituzione deve essere emanata. Sarà questo l'ultimo bastione contro l'infamia. La Costituzione sarà l'atto trionfale della Repubblica. Dove stanno a entrare i francesi? Da Porta del Popolo, di là. Ma sul Campidoglio faranno il tempo. È lunga via del corso. E noi in mezzo. Sta messa proprio bene, st'osteria. Io sono nata il giorno che sono arrivata a Roma. E così, proprio qui vicino, a poca distanza dai combattimenti, l'assemblea romana continua i suoi lavori. Cittadini e rappresentanti, la Commissione rimette nelle nostre mani il progetto di Costituzione. Discutiamo con animo imperturbato mentre il cannone ci tuona d'intorno. Il popolo già sentiva il cannone, che era l'allarme dei tradimenti, trombe, tamburi, e nella confusione delle staffette, dei strilli, dei lamenti, si sente che il nemico era padroneggiato il casino dei quattro venti. Per riportargli via la posizione, si cominciarono i combattimenti. E dal primo momento che sorgeva la luce e che si uscì fuori dalle porte, fino all'ultimo che ci si vedeva, si fece tutto. Ma non c'è fu verso di spuntarla! Fu preso per tre volte di fila. E per tre volte fu ripreso. I deputati discutono mentre l'aula trema per le cannonate, ma non si può fuggire. Qui si decide il futuro della società. Si decida dunque di vietare il voto segreto, perché segno di viltà. Voto palese di fronte al popolo, questo è il segnale di civiltà. Di fatto, appena dal nostro segnale, mentre dalle finestre le ferrate veniva giù l'inferno, dal viale si rimontava sulle scalinate, si combatteva le scale, le portoni, le sale, fra le barricate con sedie e tavolini, a mozzi, a stentoni, a sciabolate, ma qualunque arma, come se poteva, tra ferro, fuoco, sangue, morte, strilli, si cacciavano via, si rivinceva, ma non c'è fu verso di spuntarla. Preso per tre volte di fila e per tre volte fu riperso. Dall'assemblea un grido, sia abolita la religione di Stato, il vescovo se ne stia al suo posto, pensi a pregare piuttosto che tra le leggi, ficcare il naso e rimescolare, dallo scranno si alza un tumulto, giusto è giusto, la proposta va votata, ci fu un fragore come di granata, la religione di Stato fu infine eliminata. Eliminato pure il tetto che affettava, trovi su fetti mura, si bruciava, e per le camere ormai si camminava, sugli morti che si carbonizzava, ogni bomba, ogni razzo che schioccava, per le camere che si sfrafecellavano, mentre che si feriva e si ammazzava, travi, soffitti, giù, si sprofondava. Eppure sai, finché non fu distrutto tutto, finché c'è pure un mura, porte, scale, per i poterci entrare, si provò tutto, ma non c'è fu verso di sputtarla. Fu preso per tre volte di fila, e per tre volte fu riperso. C'è poco tempo, si resiste, ma abbiamo poche ore per l'approvazione. E allora al punto, bisogna arrivare al punto. Il punto blocca, determina, nulla in sospeso. Ci siamo al termine dei lavori. Un'ultima parola, prima del voto definitivo. Bisogna il punto, bisogna bloccare il punto. Il punto blocca, determina, nulla in sospeso. Chiusa la votazione, Saliceti legge il testo finale. Si procede a nuova votazione. La regolarità è fondamentale. Dunque il punto, bisogna arrivare al punto. L'assemblea, prima di cedere per violenza straniera, pubblicò la Costituzione in Campidoglio. Poi si ritrasse nella sala, aspettando di essere cacciata. Ora entri il barbaro. E adoperi la ragione della forza. Resterà impotente di fronte al nostro esempio. Luminoso esempio per i fratelli italiani. Come risentivi di fratelli d'Italia? Di rivedere tutti quanti con lancette, di sassi, di coltelli, tutte ancora le mura ributtarsi avanti. Tutti li rivedevi, perfino quelli chiusi nell'ospedale agonizzanti. Li rivedevi pallidi, tremanti. Scende dal letto e uscite di cancello. Rivedevi i morti insanguinati. Se li aprivano gli occhi, se li alzavano. Da per terra, come erano cascati. E senza sentire più le madri di tutti. Delle ferite, se li trascinavano. Sulle mura e morivano contenti. Da oggi il potere risiede unicamente nell'anima del popolo sovrano. Quella mattina, il 2 luglio, all'ospedale dei Pellegrini, Goffredo Mameli riceve l'estrema unzione. Intanto, mentre i francesi entrano a Roma, al Campidoglio si stampa e si legge il testo definitivo della Costituzione. Nelle sette concitazioni che infatti raduna la truppa ai volontari e invita chi non vuole deporre le armi a seguire. Non sono più scritti con questo piano. Che la rivoluzione sia vera, sia veramente esistita, non deve essere mai. Se viene meno, sul nuovo ordine di posto, allora bisogna ricominciarla da capo. Perché la storia va portata a compimento, non si lasciano le cose a metà. All'inizio ho detto una bugia, perché non è vero che l'avventura bella della Romana Repubblica la ricordano solo a Ravenna o a Cella. Roma ricorda perché il dal nome del Danicolo ogni giorno a mezzogiorno spara per quello. Forse non è vero neanche questo, ma ci piace pensarlo. Credere che Roma ricorda solo che se l'è scordato, che col sangue aveva scritto quella Costituzione che poi sarebbe comunque arrivata solo con 100 anni di ritardo. Thank you.

ci si ritrovava appunto nelle osterie, anche lì erano presenti tutti i pezzi della società in quel momento, e si discuteva dei fatti che accadevano, che stavano accadendo. E quindi lo spettacolo nasce appunto in un'osteria. Questa osteria poi a un certo punto diventa tante altre cose, diventa il campo di battaglia, diventa l'assemblea costituente, nella quale i costituenti approvano articolo per articolo la Costituzione, mentre i francesi, chiamati dal Papa, bombardano e cannoneggiano e poi entrano in città decretando la fine di questa esperienza, ma appunto i costituenti dell'epoca decisero di approvarla comunque per dare questo lascito, diciamo, al popolo e all'Italia intera che volevano unita in quel momento. Sulla scelta delle canzoni? Allora, la musica è stata composta dai nostri musicisti, appunto dai musicisti dell'associazione che partecipano allo spettacolo, ed è un'interpretazione moderna presa sia dalle musiche dell'epoca con contaminazioni di vario tipo. È una musica molto bella, devo dire, per chi verrà a vedere e a sentire lo spettacolo ne verrà sicuramente colpito. Ci dai tutti i riferimenti internet per maggiori dettagli? Sul nostro sito www.controchiave.it trovate tutto, anche sull'associazione e sulla Festa per la Cultura, perché questo spettacolo fa parte della manifestazione Festa per la Cultura, l'evento finale che è iniziato 3 giorni a giugno, 14, 15 e 16 giugno, e poi se volete ci potete cercare sulla nostra pagina Facebook Associazione Controchiave, dove postiamo tutto quello che riguarda la nostra attività. Benissimo, allora ricordiamo l'appuntamento a Roma al Museo Ossario Garibaldino mercoledì 3 luglio 2019 con lo spettacolo La Romana Repubblica, quando il popolo diventò sovrano. Un saluto e un ringraziamento a Paola Caldarola che ce ne ha parlato. Un abbraccio in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, grazie, ciao. Con Francesca di Casetta Rossa, spazio pubblico autogestito, per parlare della festa dell'altra estate, 17ª edizione a Casetta Rossa, Garbatella, dal 3 al 14 luglio 2019. Francesca, ben trovata. Ciao Federico, ben trovato. Eccoci, e da mercoledì 3 luglio si parte con la festa dell'altra estate. Anche quest'anno 12 giorni di appuntamenti gratuiti per adulti e bambini. Ci saranno presentazioni, dibattiti, incontri e laboratori a partire dalle 6:30 fino a mezzanotte circa. Si parte di mercoledì 3 con il classico brindisi di apertura festa e con la presentazione della banalità del Ma di Mauro Biani, a seguire uno spettacolo a sostegno della pecora elettrica. La libreria di Centocelli ha acquistato dato fuoco questo inverno. Okay. Si prosegue poi il 4 luglio con la cerimonia di consegna del censimento arboreo realizzato dal professor Mancuso e promosso dal chef Rubio. Il 5 parleremo di Roma, un incontro con Giovanni Caudo, Melbeo Ciaccheri e Gianluca Peciola per fare un po' il punto della situazione su quella che è la nostra città. Diverse le presentazioni dei libri, prima accennavo alla banalità del Ma di Mauro Biani, ma avremo anche Francesca Mannocchi con Io Caled, Ben Due Uomini e Sono Innocente. Quanto alla musica, si esibiranno tra i vari De Niro e Gian Grande, Mili Santà, e un'intera giornata, quella del 6 luglio, sarà dedicata al ricordo di Fabrizio De André. Come spettacoli torneranno a trovarci gli Amici di Lercio, Claudio Morici, Ivan Talarico, Gioia Salvatori e Daniele Parisi. Serata speciale, la serata dell'11, il palco della Casetta Rossa ospiterà la proiezione di Elias, il corto di Brando Bertoleschi prodotto da Chef Rubio. Sarà una serata per conoscere la comunità rom di Roma attraverso cucina, cinema e musica. Ogni giorno un solo evento o saranno anche più eventi durante una giornata? Ogni giorno spazio a diversi eventi, okay. Dai laboratori per adulti e bambini il pomeriggio, presentazioni, ora aperitivo e poi la serata l'evento principale. Mi dicevi che la festa dell'altra estate è un po' un momento di bilancio per le attività svolte durante l'anno da Casetta Rossa. Sì. cioè durante l'anno organizziamo presentazioni, incontri, dibattiti, portiamo avanti progetti sociali, la festa dell'altra estate è un po' un momento per festeggiare, festeggiarci insieme a tutte le persone che hanno attraversato il nostro spazio nel corso dell'autunno. Quindi la scelta degli ospiti ricade un po' sia su quelle che sono le tematiche su cui ci vogliamo maggiormente concentrare, vedi tutto quello che faremo su migranti, ospiteremo anche Mediterranea, e così come ospiteremo quelli che sono stati gli ospiti che nel corso dell'inverno sono stati più vicini a noi. Allora, ricordiamo la 17ª edizione della Festa dell'Altra Estate a Roma, Garbatella, Casetta Rossa, spazio pubblico autogestito, dal 3 al 14 luglio 2019. Un saluto e un ringraziamento a Francesca, che è una delle curatrici. E in chiusura ci dai anche tutti i riferimenti web per la programmazione? Certo, è possibile trovare il programma completo sulla nostra pagina Facebook e sul sito casettarossa.org. Perfetto, un abbraccio e ci si vede lì. Ciao! Con Alice Corte, una delle curatrici del numero 48 di Zapruder, dal titolo Tifo, che sarà presentato a Roma al laboratorio occupato autogestito Acrobax mercoledì 3 luglio 2019. Alice, ben trovata. Ciao a tutte e tutti. Per chi non conoscesse la rivista, raccontiamo intanto qual è il progetto Zapruder. Sì, il progetto Zapruder è una rivista che nasce da un'associazione che si chiama Storie e Movimento, che nasce nel 2001 e si propone di fare storie della conflittualità sociale. Ovviamente la nascita in quegli anni non è assolutamente casuale, quindi insomma adesso siamo appunto arrivati al numero 48, la rivista è quadrimestrale e tutti gli anni escono 3 numeri curati da persone volontarie e militanti che appunto si occupano di storie e non solo, perché poi una delle vocazioni della rivista e anche dell'associazione è essere un po' larga, insomma, di vedute e anche di prospettive scientifiche, diciamo. Questo numero, il titolo è Tifo, ci racconti questa scelta? Sì, la scelta nasce insomma dal fatto che non ci eravamo occupati di sport da molto tempo. E uno dei primi numeri in realtà era stato appunto dedicato allo sport e ora avevamo deciso insomma di occuparci di una delle manifestazioni legate allo sport che coinvolge di più le masse, se vogliamo, e che in qualche modo è anche stata espressione notevole di conflittualità sociale. Questo senza però appettirci solo sul tema del movimento ultras negli anni 90, diciamo, che è un po' ovviamente è molto presente nel numero, che è stato largamente insomma affrontato da compagni e compagni negli anni, e appunto cercando di assumere prospettive diverse anche a livello storiografico, quindi appunto abbiamo persino deciso di inserire un articolo sul tifo nella storia antica, quindi nell'antica Grecia, con un volo su Roma, e non solo sul calcio, quindi abbiamo deciso di inserire articoli che riguardino non solo appunto il calcio, ma anche il pugilato, il ciclismo. Su cosa avete focalizzato l'attenzione rispetto al mondo del tifo? Intanto abbiamo cercato ovviamente di dare una prospettiva di conflittualità sociale a quelle che erano le nostre proposte, quindi abbiamo cercato insomma di sviscerare un po' questi elementi, ripeto, senza però andare solo sull'aspetto del movimento ultras e del suo sviluppo, che pure è stato affrontato da Lorenzo Giudici in un articolo che appunto ne parla a livello storiografico. Per quanto riguarda per esempio il pugilato, abbiamo scelto di parlare di 3 pugili che hanno avuto un forte sostegno popolare, pur essendo come da titolo un nero, un mulatto e un sinto, per in epoca in cui questo non era assolutamente visto bene. Quindi per esempio Leone Iacovacci, su cui c'è anche un documentario molto interessante, che fu un pugile nero a Roma durante gli anni del fascismo e che ebbe molto sostegno popolare nonostante appunto non fosse proprio ben visto ovviamente dal regime. Più o meno quante firme? 4 articoli, mi pare, degli Zoom, che sono il nostro focus, diciamo, all'interno della rivista. Abbiamo un paio di interviste, una altra narrazione con Zero Pregi, e l'altra, tra l'altro, l'intervista abbiamo appunto una a Claudio Dione Salvi, che insomma è piuttosto famoso a livello di sia di arte che di movimento ultras, un intervento sul museo del ciclismo e poi la prospettiva appunto abbastanza ampia, perché sul calcio abbiamo sia la Jugoslavia, quindi gli elementi nazionalistici, come sono state usate anche le squadre a livello di nazionalismo in Jugoslavia, e questo sul pugilato che dicevo, e quello sull'antica Grecia. Abbiamo poi un articolo di Lania Rossini sulle fonti, molto interessante perché è sulle fonti poliziesche, che riguardano il movimento ultras agli albori, quindi le prime repressioni del movimento ultras negli anni 80 già. È previsto un calendario di presentazioni pubbliche? Al momento abbiamo già fatto una presentazione il 26 giugno a Napoli e ora c'è questa del 3 luglio ad Agrobat a Roma. Poi stiamo lavorando sulle prossime, che spero che siano appunto in varie città d'Italia e non solo. Si sta ventilando un'ipotesi barcellonese. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Allora, tutti i riferimenti web sono su storiemovimento.org, dove si può anche acquistare la rivista, e ovviamente su Facebook poi c'è il profilo Abraham Zapruder, e eventualmente si può anche vedere dalla nostra nuova casa editrice, perché la rivista è stata nuovamente edita appunto da Mimesis dopo tanti anni con Odradek. Ricordiamo la presentazione della rivista Zapruder, il numero 48 dal titolo Tifo, a Roma, al laboratorio occupato autogestito Acrobax, mercoledì 3 luglio 2019. Un saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici, Alice Corte. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi e ovviamente sì, ci risentiamo presto e un bacio a tutti e a tutti. Con Lisa Gilardino ed Eva Nekliaeva, direttrici della 49esima edizione del Sant'Arcangelo Festival dal 5 al 14 luglio 2019. Ben trovate. Grazie. Raccontiamo cos'è per chi non conoscesse questo storico festival. Sant'Arcangelo Festival è un appuntamento imperdibile dell'estate, è un festival ormai tipo sul territorio da 49 anni a Sant'Arcangelo di Romagna, che si è, come dire, imposto sull'orizzonte delle arti performative contemporanee a livello internazionale, e è una bellissima occasione per immergersi letteralmente in progetti di musica, danza, teatro, circo e arti visive dalla mattina fino a notte fonda, quindi è veramente un'esperienza intensa. Raccontiamo un po' questa edizione, come si caratterizza? Il slogan di questa edizione è Slow and Gentle, e offriamo al nostro pubblico la possibilità di essere in questo festival in luglio in Sant'Arcangelo di Romagna in una modalità slow and gentle, allora completamente diversa da questi tempi frenici che viviamo. Ci piace l'idea che il festival sia un momento di eccezionalità, e quest'anno l'abbiamo rimarcato anche invitando il nostro pubblico, i nostri spettatori, le nostre spettatrici ad attraversarlo proprio con un ritmo diverso, con l'idea che si possa creare uno spazio e un tempo per fare quasi un allenamento tipo training in palestra per uno sguardo e un pensiero critico. Quanti gli artisti, quanti gli eventi? Abbiamo circa 45 artisti in questo programma e 150 eventi, abbiamo il programma pieno dal mattino a mattina, ogni giorno, ogni notte. Allora, come al solito, immagino che i luoghi saranno diversi all'aperto e al chiuso. Al